abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. E ovviamente anche di Giorgio De Luca, autore di questa puntata, di Gianmarco Ferronato dietro il vetro in regia. Ciao Pier. Ciao. Oggi abbiamo un ospite straordinario che è venuto a trovarci qui e che saluto, Pierpaolo Marino. Ciao Pierpaolo. Buon pomeriggio. Reduce da uno dei mille alberghi del mercato, dove si sta lottando, 8 ore e 54 minuti e poi finalmente possiamo pensare al mercato di gennaio. Di riparazione, come ho scritto Biasin ieri, esatto, lo citiamo, ma dopo l'avremo Fabrizio Biasin, e gli chiederemo se anche lui si è accorto che l'Inter aveva dei paletti del fair play finanziario così ieri sera all'ultimo momento, come ha detto Ausilio. Allora, andiamo per le cose importanti. 800 24 00 24 per chiamare, prenotarsi, intervenire fino alle 15. Poi se avete domande per Pierpaolo Marino, fatelo, che è tutto, lui ha attraversato oltre 30 anni di calcio, siamo quasi a 40, siamo a 40. Quest'anno 40. Festeggia 40 anni di calcio. 349-238-6666, SMS e WhatsApp. Allora, se sei d'accordo Pier, come ieri facciamo il borsino del calciomercato a quasi 9 ore dalla fine delle trattative. Vai. Allora, la Lazio sta per ufficializzare Nani, 15 milioni dal Valencia, visite mediche fatte, ci sarà la firma. Lotito ha reinvestito i milioni presi dalle cessioni di Keita con Nani e poi con due giovani portoghesi, Pedro Neto e Bruno Jordão, non Giordano, Bruno Jordão, che tutti dicono essere fortissimi. L'Inter, ore frenetiche, nell'ultima notte che Sabatini ieri aveva definito così. Direttore, ci dice solo se è ottimista per Caramò? Ottimista? Sì. Siete vicini, più vicini. Assolutamente ottimista, ma... lasciate mandare ragazzi, sono... mancano pochi minuti, dobbiamo fare il lavoro. Può arrivare anche un difensore domani, direttore? C'è tutta la notte davanti, l'ultima notte di mercato è una notte lunghissima, è la notte bianca di Dostoevskij. Allora, la notte bianca di Dostoevskij ha partorito che Caramò è a Milano per le visite mediche e poi si troverà l'accordo col Caen, preso bastoni dall'Atalanta. Resta però 2 anni in prestito a Bergamo, 10 milioni. E poi vedremo se l'Inter prende un difensore centrale in più per questo campionato. E poi Milan e Torino, Niang, trattativa praticamente finita, pare intorno ai 20 milioni bonus compresi, quindi avrebbe vinto il Milan come richiesta di soldi. Il Napoli, ieri De Laurentiis aveva chiuso così il caso Reina. Reina, io non ho mai avuto problemi. Reina ha un contratto che scade l'anno prossimo, allora perché a casa mia i contratti si rispettano. È venuto il Paris Saint-Germain, ha detto ti do 5 milioni più 2, dico grazie, arrivederla, e adesso mi sono arrivati vari messaggi che vuole parlare, vuole discutere, ma di che? Ma è possibile che questi non si rendano conto che noi mica siamo lì per fare gli sparring partner? Intanto il Napoli, che non fa lo sparring partner, in 3 giorni ha piazzato cessioni per 40-50 milioni di euro, risparmi compresi di ingaggio. Le ultime: Zapata, Strinici e Tonelli, 22 milioni, pacchetto completo che va alla Sampdoria. L'Udinese non vende Yang Tho al Milan. Il Crotone sta prendendo Tumminello in prestito. Babacar ha detto no al Brighton. Capitolo Juventus: ieri Marotta ha detto che il mercato è chiuso, ma noi non ci fidiamo finché non lo vediamo questa sera alle 23:01. Quindi su Spinazzola si sta lavorando ancora in realtà. E poi di Marotta fanno discutere queste parole: non abbiamo tanto accettato quella, su Instagram, le esternazioni da parte di Papu Gomez, capitano, che se anche non l'ha detto direttamente, ma in certe dichiarazioni vengono anche interpretate, noi le abbiamo interpretate benissimo, che ha sfiduciato un suo compagno di squadra. Generalmente la figura del capitano è quello di incentivare, di supportare quello che è poi l'attività dei compagni di squadra. Chi fa il capitano deve avere delle qualità maggiori e quindi lo invito anche a riflettere un attimo su questo ruolo, o quantomeno confrontarsi con uno che questo ruolo fa molto bene, che si chiama Gigi Buffon. E insomma, queste parole di Marotta, e vediamo poi che fine fa Spinazzola secondo te, direttore? No, ma intanto io, che sono sempre o molto spesso d'accordo con l'amico Beppe Marotta, qui devo dissentire perché è andato anche un po' lungo, è andato un po' lungo. Esageratamente, perché in realtà se un capitano vede un componente di una rosa avere dei comportamenti che vanno fuori dalle regole e quindi sono offensivi del lavoro del gruppo, deve tutelare il gruppo e deve ricordare quali sono le regole di convivenza all'interno di un gruppo, altrimenti si sgretola tutto. Quindi secondo me l'intervento di Gomez, poi possiamo dire andava fatto su Instagram o meno, però, no, certo, però in realtà è da capitano. No, ma poi la riflessione che ho fatto io, Pier, no, ma non è solo quello, è anche che Marotta mette il naso in una questione interna all'Atalanta. Assolutamente, no, per me l'unico piccolo elemento di discussione può essere il fatto che magari una roba del genere la fai all'interno dello spogliatoio, non la fai su Instagram, ma secondo me il Papu Gomez ha fatto il capitano. Anzi, no, è proprio il compito del capitano, esatto, se vede un giocatore della sua squadra che è un po' distratto, che è un po' in difficoltà, a richiamarlo all'ordine. Ha fatto il capitano dell'Atalanta, non ha fatto il capitano della Juve, diciamo, se mi passi la battuta, ha fatto il capitano dell'Atalanta. Francamente anche io questa cosa non l'ho capita, insomma, ripeto, l'unica cosa sulla quale si può discutere è dal punto di vista del Papu aver fatto questa roba pubblica, cioè non averla fatta privata, ma sulla sostanza. Anzi, se vedo un giocatore giovane della mia squadra che è demotivato, cerco di dargli una scossa. Sì, trovi il modo che vuoi tu. Secondo me c'è un po' di stizza. Marotta pensava di risolverla in mezz'ora, la questione di Spinazzola, io credo. No, ma sicuro, sicuro. Il problema è che Marotta pensava, come è giusto che sia, che un giocatore di sua proprietà lui può interrompere il discorso del prestito biennale quando vuole, però in realtà una squadra come l'Atalanta fa anche una programmazione tecnica su un prestito biennale. Ma quindi chi ha ragione, Percassi o Marotta? No, in questo caso ha ragione Percassi, anche perché è, come diceva l'avvocato Grassani ieri al convegno Adise, è carente il regolamento, perché nel modulo federale del prestito biennale, ad esempio, dovrebbe essere prevista una penale a carico della società che presta il giocatore se lo vuole riportare automaticamente indietro dopo un anno, e questo eviterebbe ogni discussione nel momento in cui la si accetta. Ma così, se il prestito è biennale e la controparte non lo vuole sciogliere, bisogna lasciarlo in prestito. Vado come memoria. È accaduto con Caldara, no? Perché Caldara è la stessa. Ne cito anche un altro. Capisco il fastidio della Juve, che è assolutamente legittimo, però dal punto di vista, diciamo, del regolamento procedurale mi sembra che la questione sia semplicissima, insomma, se è un prestito è biennale. Io cito un precedente recentissimo, credo che il Napoli si sarebbe ripreso volentieri Zapata dopo l'infortunio di Milik, ma era in prestito biennale all'Udinese, e tenne duro. E lì è rimasto. Allora leggo qualche messaggio arrivato, 349-238-6666, Marco scrive: Marotta con queste parole ha difeso un proprio asset. Poi un altro amico: i panni sporchi si lavano in casa, Spinazzola è della Juventus e Marotta deve tutelarlo. Poi c'è chi ci ricorda le parole di Marotta che dice: siamo fiduciosi, gli abbiamo parlato, però lo scenario cambia di anno in anno, insomma, diciamo, ha ragione Spinazzola a non voler perdere il treno della Juventus. E poi, insomma, c'è chi chiede cosa farebbe Marino con Spinazzola. Se fossi ancora all'Atalanta, sì, lo terrei, perché ripeto, altrimenti hanno un esempio in casa. Caldara era nella stessa situazione, probabilmente Marotta dopo la vendita di Bonucci l'avrebbe rivoluto subito, prestito biennale anche quello, e Caldara è stato al suo posto. Spinazzola è un bravissimo ragazzo, lo conosco quando l'abbiamo preso, però qui doveva essere un attimo più tranquillo, secondo me, anche perché se la cosa la gestiscono i procuratori e Marotta e Percassi, la cosa va meglio, perché Percassi è un imprenditore di grandissimo livello e l'ultima cosa che devi fare è prenderlo sulla sfida andando fuori dalle regole. Mi hanno raccontato, naturalmente sono informato un po' delle cose, hanno raccontato di atteggiamenti nei confronti del gruppo di Spinazzola che veramente erano provocatori, non nel senso che li andati a minacciare, cercare di rompere, per esempio, se tutta la squadra è a guardare il sorteggio Europa, che per l'Atalanta significa il ritorno dopo una vita nell'Europa, e saranno in 20.000 ad andare a Reggio Emilia da Bergamo, quindi pensa un po', era l'unico che non era davanti alla televisione al sorteggio. E questo è una cosa che infastidisce. E questo credo sia quello che ha scritto. Poi possiamo discutere sul modo il suo capitano, ovvero Gomez. C'è chi ci dice Juve e Atalanta romperanno i rapporti. Scordatelo, amico mio, tant'è vero che la Juve ha appena riprestato un altro giocatore all'Atalanta. Sono credo da mezzo secolo, no, Pasquale? Marotta ha fatto il suo. È chiaro che Marotta ha fatto l'interesse della Juve, solo che in questo caso il prestito è biennale e l'interesse della società alla quale il giocatore comunque è stato riprestato, è quello, c'è poco da fare. Guarda, hai citato il caso di Duván Zapata, che è assolutamente paradigmatico, perché lì, dopo l'infortunio di Milik, il Napoli l'anno scorso aveva veramente bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche e non si era ripreso, e ha speso i soldi per Pavoletti, ha fatto un'altra cosa, cioè, quindi è proprio, è una questione sorpresissima. Capisco Marotta, però ha ragione la Taranto. Allora, abbiamo un minuto che me lo prendo. Prima del traffico voglio chiedere flash a Pierpaolo Marino se è stupito dall'accordo tra Milan e Torino per Niang, su cifre che paiono più vicine a quelle chieste dal Milan che a quelle pretese dal Torino. No, perché non sono stupito, perché Fassone è un dirigente abile, Cairo è uno che vuole tirare fino all'ultimo momento nella trattativa, nella negoziazione, ed è bravissimo nelle negoziazioni. Però se una società si mette all'angolo nell'ultimo momento di mercato e non ha una punta, e deve prendere assolutamente una punta anche per le pressioni del proprio allenatore, che non è uno che sta tranquillo lì e non dice niente, insomma, quindi è uno muscolare, Mihajlovic, alla fine vince chi regge il blef fino, perché anche il Milan lo voleva cedere, no? Però naturalmente è più scomoda la posizione di chi rischia di rimanere senza l'attaccante che quella di chi dice vabbè, lo pago ancora 4 mesi fino a gennaio. Sì, e mi tengo l'esubero. Poi, siccome abbiamo un grandissimo esperto, cioè giustamente chi ne approfitta, ha mandato un messaggio per chiedere se al fantacalcio è meglio Icardi o Higuain. Dipende dal prezzo. Abbiamo il traffico, ci pensi. Ad esempio, Caramò, Caramò. Dipende dal prezzo, sarà più, io conosco Pier Caramò, no? E per aspetta, per me... abbiamo il traffico. Sì, perché okay. Pierpaolo Marino è uno dei pochi che conosce davvero Caramò, perché la verità è che tanto il grande pubblico Caramò l'ha scoperto negli ultimi 2 o 3 giorni di trattative di mercato. Caramò che sta facendo le visite mediche con l'Inter e quindi al 99% sarà un giocatore dell'Inter. E allora il traffico 800 24 00 24, ripartiamo anche da qui. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Io sono rassicurato in qualsiasi modo. È chiaro che poi abbiamo fatto dei discorsi e quando poi si prendono degli accordi, le cose bisogna poi mantenerle, e sono convinto che questo accadrà, perché quei 2, 3, 4 calciatori c'è da metterceli dentro, che non è detto che siano poi dei campionissimi, però sono di completamento per quello che manca a questa squadra, perché secondo me, dal mio punto di vista, qualcosa bisogna modificare. Questo era Spalletti di inizio luglio. Poi improvvisamente ieri sera intorno alle ore 22 abbiamo scoperto che all'Inter hanno scoperto che non potevano fare tutto quello che volevano per il fair play finanziario. Poi abbiamo saputo le questioni legate al blocco dei fondi del governo cinese. Saluto intanto Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio. Ciao Giovanni, buon pomeriggio e a tutti. E poi Sabatini ha detto questo. Mi sembra molto recriminante la mia fortuna da questo punto di vista. Si ripristinerà a gennaio. Non sono affatto preoccupato, so che l'Inter non si aggiusta in 2 mesi, ci vorrà del tempo, e saremo pronti a gennaio a integrare un roster, una rosa che è comunque di ampia garanzia. Io convoco tutti gli interisti, 800 24 00 24, però voglio partire da Pierpaolo Marino, che conosce sicuramente i meandri degli operatori di mercato. Secondo te cosa pensa Spalletti in questo momento? Pensa che gliene hanno tolti 6 e ne sono arrivati 2, insomma, e non è contento, secondo me. Sabatini è un po' temporeggiatore, lui magari aspetta anche qualche occasione sul filo di lana. Io ad esempio non dimentico che una volta si dimise dalla Lazio perché all'ultimo momento del mercato gli sfuggì l'attaccante, quindi è uno che nelle negoziazioni è temporeggiatore, va fino in fondo. Anche Pjanic credo l'ho presa all'ultimo giorno di mercato. Sì, però una volta, se non ricordo male, si dimise perché alla fine rimase col cerino in mano. Però io dico, rispondendo alla domanda del fantacalcio, perché altrimenti è riguardoso resta, non esatto. rispondere. Dicevo, io conosco Caramò. Secondo me è un 19enne che sa crossare come quelli del calcio antico, perché oggi non ci sono giocatori che sanno crossare. Con il calcio moderno si è persa questa prerogativa. Quindi perfetto, o perlomeno crossano mediocremente la maggior parte, anche quelli fuori classe. E questo l'ho visto fare dei cross soprattutto dalla destra, importanti. E quindi dico, siccome la Juve non gioca per Higuain, ma è Higuain che si sacrifica per la Juve, mentre l'Inter ho l'impressione che giocherà per Icardi, io dico compra Icardi se costa uguale Higuain. Quindi il nostro X Factor è, amico che giochi a fantacalcio, devi fare l'asta, prenditi Icardi. Condivido, Fabrizio Biasin, dimmi se sei d'accordo sul fantacalcio, se sei tranquillizzato dalle parole di Pierpaolo Marino. Ma io sono assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda. È chiaro che questo poteva e forse doveva essere un mercato più spumeggiante e più brillante, però viste le necessità, il fair play finanziario, il blocco dei soldi del governo cinese e la volontà di Zhang di fare le cose in maniera diversa, io credo che chi ha operato e chi sta operando, perché mancano ancora 7-8 ore, lo ha fatto in maniera saggia. Cioè non è che l'Inter non ha fatto mercato, lo ha fatto, sono arrivati anche dei profili che piacevano, che voleva Spalletti, penso per esempio a Vecino e Borca Valero. Poi, chiaro, non è arrivato Di Maria, non è arrivato James Rodriguez, non sono arrivati Vidal e Nainggolan, e su questo dibatteremo. Neanche Verratti, Manolas e Rudiger, così li diciamo Conte. E neanche ecco. Messi che sognava il sindaco Sala. E neanche qualche divinità pagana, per amor del cielo. Però la verità è che tante volte siamo noi comunicatori che creiamo dei problemi, perché buttiamo là centinaia di nomi e non ragioniamo invece su quelle che sono le problematiche evidenti, perché il problema finanziario non è un'invenzione, esiste veramente. Fabrizio, mi fai un piacere immenso dire questa cosa qui al 31 agosto, perché sì, abbiamo combattuto una lunga battaglia su questo tema. Ma anche guarda, perché io ad aprile mi sono permesso di scrivere, attenzione perché non sarà il mercato dei 200-300 milioni, sarà un mercato interessante ma attento ai bilanci. E per questo sono stato insultato, diciamo, anche in maniera abbastanza incredibile. Fabrizio, però allora perché sono andati a fare offerte a Nainggolan e a Chic? Se il fair play finanziario era in deficit già allora. Sono state fatte delle offerte nell'ottica di quelle che erano le possibilità dell'Inter e infatti non sono arrivati. Però, ho capito, però tra entrambi c'erano 60 milioni, ora si parla solo all'ultimo momento di prestiti con diritto e non obbligo. Beh, ma è chiaro che c'è stato uno switch, cioè a un certo punto quelle che erano delle possibilità sono diventate delle imprese quasi impossibili, perché nel momento in cui si chiudono i rubinetti a monte poi ti devi inventare le notti come quella appena trascorsa, cioè a trovare un modo per arrivare a Caramò. Sono d'accordo con te, direttore, secondo me questo ragazzo ci sorprenderà, perché è un ragazzo che a 19 anni gioca 35 partite. Certo, in un campionato magari non di primissimo piano come quello francese, però con quei numeri secondo me farà benissimo anche in Italia. Io Pier sono più sorpreso che l'Inter inizi con due difensori centrali più Ranocchia. Poi ci spiegheranno però, che D'Ambrosio va riciclato, però no, secondo me qualcosa è successo. Sono d'accordo con Fabrizio, sicuramente lo switch c'è stato una sorta di downsizing, ci piace parlare così oggi, nel senso che sicuramente si è a un certo punto diminuito l'investimento complessivo. Io credo che l'Inter abbia cercato, soprattutto nella prima parte del mercato, di fare grandi colpi, ma probabilmente se fosse riuscito ad arrivare a uno tra Vidal, Nainggolan, uno di questi avrebbe fatto scelte diverse, magari non avrebbe preso Vecino, non avrebbe preso Dalbert. Quindi secondo me hanno provato a fare delle cose, poi in corso d'opera il budget è diminuito, questo mi sembra abbastanza evidente. Sui difensori sono d'accordo, credo che sia forse l'elemento più preoccupante in assoluto, se ce n'è uno. Perché comunque lì è un po' corta la squadra. Comunque, bisogna marcare su Mangalà ancora. Mangalà, hai capito Fabrizio? Mangalà, questo è un messaggio in codice, marcare su Mangalà. Il direttore la sa sempre lunga, per cui io ascolterei molto attentamente. Ha detto prima, io sono un po' informato sulle cose, un pochino. Ho le antenne dritte. Poi ha detto una cosa proprio sì. da insider totale sullo spogliatoio della Francia. Sì, ne ha detta anche un'altra, poi gli amici si riascoltano in podcast questa prima mezz'ora e la tirano fuori da insider. Volevo però che mi datemi un voto al mercato dell'Inter, dai, al netto così con Caramo e per il momento senza il difensore in più. Io do 7 perché l'acquisto più importante è stato Spalletti. Spalletti, certo. Poi, e quindi quando azzecchi l'allenatore è come aver azzeccato 3 top player. Poi mi piace moltissimo Vesino e Borja Valero non mi piace come età, ma mi piace come rendimento immediato e ha fatto cose logiche. Se non prende un difensore, alla fine abbasso il voto a 6,5. Fabrizio? Io non posso credere che non facciano un difensore, perché sarebbe qualcosa di incredibile, cioè una squadra che vuole arrivare in Champions League e non prende un terzo difensore spendibile non esiste, per cui secondo me lo prendono e con il difensore centrale sono d'accordo col direttore da 7. Grazie Fabrizio, alla prossima. Grazie a voi, ciao ragazzi, ciao Pier, ciao direttore. Io do 7,5 perché sono Spalletti. Spalletti sarebbe un voto, quindi do 6,5 senza Spalletti e 7,5 considerato che è arrivato un allenatore che secondo me rappresenta la svolta di questa squadra, la razionalizzazione. Poi c'è il discorso ovviamente che l'Inter non ha le coppe, quindi ha tempo di lavorare. Ha tempo di lavorare, ha tempo di, ovviamente anche la dimensione della rosa cambia, però il difensore non arriva indubbiamente, è un problema. Santo da Reggio Calabria, 800 24 00 24, vai Santo. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Vorrei chiedere come mai l'Inter, che i programmi, non ho capito ancora i programmi dell'Inter, se sono per formare una grossa società, in quanti anni. Io credo che quest'anno si sia dedicato più alla vendita che agli acquisti veri e propri, se vorrei sapere qualcosa, qualche novità di questo genere. Io credo che quando tu pensi di fare un club grande, forte, comunque meno di 5 anni non puoi immaginare di metterci. La crescita è graduale. Direi dai 3 ai 5 anni, però come abbiamo già detto prima e anche ha ribadito Pierre, io poi ho lavorato 3 anni con Spalletti a Udine, quindi lo dico con forza, aver preso un allenatore, l'ottimizzatore delle risorse umane, importante e forte, che ti porta sempre le proprie squadre nei primi 3 posti, e l'ho fatto anche a Udine, e quindi io dico che hanno fatto sicuramente un gradino più in su, anche perché l'Inter era una squadra individualmente già buona l'anno scorso, anzi ottima nelle individualità, però non faceva gruppo, non faceva squadra. Coinvolta in una stagione disastrosa. Prima della borsa, esauriamo qualche messaggio che è arrivato, 349-238-6666, parto da Pier, con Niang, cosa ne pensi del mercato del Toro? Roberto da Crema. Io il Toro lo vedo bene in assoluto, queste prime 2 giorni di campionato in qualche modo l'hanno anche confermato, perché al netto del gol annullato nel finale, insomma, prima poteva essere a punteggio pieno e non avrebbe rubato nulla. E quindi l'intelaiatura è molto buona, la base è molto solida, Belotti rimane chiaramente un investimento, perché avevo tenuto, anche se non è arrivata l'offerta a 100 milioni, però è comunque un segno di grande rafforzamento. Mi piace, neanche credo sia un giocatore importante. Penso che questa partita a carta alla fine la vincerà il Milan, perché come ci diceva il direttore, poi alla fine fra le due quella che ha più bisogno in questo momento è il Torino. Sì, neanche è un esubero. Anche se Cairo è un grande contrattatore, questo posso. È un grande mercataro. Ci chiedono di Asamoah al Galatasaray, se non si sblocca Spinazzola, Asamoah resta alla Juventus. Poi ci chiedono, e lo chiedo per Paolo Marino, se la Fiorentina ha una rosa da salvezza. Ma io credo di sì. Sì, assolutamente. Non scherziamo. Da salvezza assolutamente, altrimenti Pioli uscirà dal calcio se non dovesse realizzare questo, che non lo merita, perché Pioli è bravo, no, assolutamente. Poi Massimo da Catania, Massimo. Buongiorno, mi scusi. Vai. No, volevo soltanto dire che proprio siamo delusi noi interisti, non tanto dal mercato dell'Inter, perché negli ultimi anni siamo stati abituati a tanto di peggio, quanto dal comportamento dei dirigenti, che è proprio quasi meschino, cioè che figure con Spalletti scoprono adesso, continuano a prenderci in giro. Cioè, io ancora cerco l'autore dello scambio Guglielmo in Pietro Pirlo, cioè lì. Però stai parlando della preistoria. Sì, ma perché continua a essere storia da noi, sì. Questo continua a essere storia. Però stiamo parlando degli anni, fine anni 90. Ma io invece penso che questo, al netto del fatto che l'Inter ha speso meno di quello che sembrava a un certo punto, l'abbiamo detto mille volte, cioè sembrava che nel 2000 fosse l'Inter quella pronta a fare subito degli investimenti molto forti, e quindi da questo punto di vista c'è stata un'inversione rispetto alle premesse. Però al netto di questo, secondo me l'Inter non ha speso male, ha preso secondo me un difensore come Skriniar che mi sembra, ecco, uno sul quale punterei, e mi sembra che lo stia già dimostrando. Ha preso Dalbert, che è un giocatore che ha fatto benissimo l'anno scorso a Nizza, è entrato bene l'altro giorno con la Roma e secondo me aumenta. E poi ha rinforzato il centrocampo, dove serviva. Pier, siamo in ritardo sulla borsa, sì. La facciamo, chiediamo scusa ai colleghi, un minuto, torniamo subito, 800 24 00 24, c'è chi chiede anche a Pierpaolo Marino del Napoli, poi glielo facciamo dire. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Oh raga, veramente. Non ce la faccio più, voglio il napalm. Dove cazzo siete? Io, cioè, sto sudando tutto, sono in astinenza come un eroinomane. Ho bisogno della zanzara. Ragazzi, per favore. No, raga. No, no. Tornate, per favore. Giuseppe Cruciani. David Parenzo. Radio 24. Fra poco, di nuovo in onda. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Allora, di nuovo in diretta qui con Pierpaolo Marino, c'è Pierluigi Pardo, scrive un amico: se avete dato 6,5 al mercato dell'Inter, quello della Roma sarà da 10. Direttore, cosa gli diamo alla Roma? La Roma gli do 7. Pier? Ma io do 6,5, sembra in linea con quello dell'Inter, insomma. Ma la Roma ragazzi è un'anomalia, perché è una squadra che arriva seconda in classifica, quindi con la certezza dei soldi della Champions, e che deve vendere così tanti giocatori come è successo quest'anno, è sicuramente una cosa non normale. Era poi io sinceramente stimo Di Francesco e penso che meriti credito, perché se penso a Sarri e al curriculum che aveva Sarri prima di arrivare a Napoli, adesso giustamente è venerato come allenatore e come uomo, ma quando è arrivato ovviamente aveva un'esperienza che era forse addirittura inferiore rispetto a quella che ha Di Francesco adesso, e dopo 3 partite aveva 2 punti. Lì il merito è stato dell'ambiente e della società di resistere, di non mettersi paura. C'erano state le famose dichiarazioni di Maradona, le ricorderete, ed è venuto fuori un Napoli pazzesco. E secondo me qui a Di Francesco bisogna dare fiducia, senza alcun dubbio. Schick è un grande colpo, sicuramente. Che però porterà, credo, Di Francesco a cambiare il modo di giocare. Ma questo secondo me, lo dicevo anche l'altro giorno, è una cosa positiva, sinceramente, perché per le caratteristiche, per esempio, di Nainggolan. Però positiva se riesce l'operazione. Ma riesce l'operazione, perché non deve riuscire. Io non penso che Di Francesco è bravo, non è uno che sa giocare con un motore. Per tornare al discorso del Napoli, Sarri arrivò da Empoli a Napoli, fece nelle prime 3-4 partite il trequartista, si rese conto che le caratteristiche dei giocatori erano diverse, cambiò modulo e non tornò più indietro. Quindi secondo me bisogna adattare, ma questo credo sia abbastanza da parisiano, bisogna adattare il modulo, quelle che sono le caratteristiche dei giocatori. La lezione di Spalletti è stata quella di aver trasformato Nainggolan in un attaccante aggiunto, in un giocatore che se parte in una posizione un pochino più centrale e con una libertà di inserimento di un certo tipo, ti può fare 10 gol in una stagione. Perderla questa prerogativa, cioè, secondo me sarebbe un problema, no? Quindi sarebbe un delitto più che un problema. Aspetta Pier, allora io intanto saluto Guido Vaciago. Ciao Guido. Ciao, ciao Piero. Adesso diciamo due cosine sulla Juventus. Prima però voglio girare due messaggi a Pierpaolo Marino. Il primo chiede come fu lavorare con Reia. Corroborante. E il secondo chiede qual è il voto al mercato del Napoli. Che di fatto non c'è stato, ma già è comunque 8, una notizia. Perché il mercato delle riconferme mi è piaciuto molto. Il mancato mercato mi è piaciuto. Il terzo lo aggiungo io: è se De Laurentiis è l'unico che sa trattare Raiola come merita. Ieri ha detto è un cartone animato. Un cartone animato, esatto. No, non lo so, perché può essere scevro da contraccolpi, non ha giocatori Raiola, quindi il merito. Ma prima o poi gli capita, saperlo no, trattare però... significa non prendere suoi giocatori. Perché... Posso dire una cosa? Anch'io condivido il voto alto, poi si può discutere se 7.5 o 8 fare voi. Pensavo però... condividessi il cartone animato. No, vabbè, ma lì. Però è vero che lui comunque veramente sei uno che non le manda a dire, su questo non ci sono dubbi. No, che secondo me questa, anch'io sono d'accordo che la forza del mercato del Napoli sia stato il mancato mercato e la capacità di tenere giocatori importanti. Penso che sia grande merito ovviamente della società, ma sia anche un merito ambientale e di Sarri, nel senso che questo famoso patto, che se vuoi è stato anche un po' romanzato in queste ore, però poi alla fine di fondo insomma c'è. Cioè questa generazione di giocatori ha capito che lì sta bene, che si diverte e che può vincere insieme. E questo è decisivo, perché tu puoi essere forte come società quanto ti pare, ma se i giocatori Palatina se ne vogliono andare perché non si trovano bene, perché non hanno questo feeling che invece alla, c'è alla fine il progetto non lo porti mai a, non porti a casa. E sono d'accordo che il capolavoro è stato tenere e rinnovare i giocatori che avevano offerte clamorose in giro per il mondo, però perché questo avvenga, questo è avvenuto, ovviamente il merito è della società, ma secondo me anche dell'allenatore e del gruppo e dell'ambiente. Ma allora, intanto ultima ora, Chelsea su Zappa Costa, c'è un'offerta per il Torino, speriamo non vada via, io spero che quelli che devono fare il mondiale restino qui, però fatemi coinvolgere Guido Vaciago, perché voglio comunque continuare ad approfondire il tema sulla Juventus. Allora vi faccio sentire, al di là della questione Papu Gomez, questa cosa che ha detto ieri Marotta su Spinazzola. Ma io lo considero quasi un caso umano, perché si tratta di un ragazzo amante del gioco del pallone, amante della squadra che l'ha fatto crescere, perché Leonardo è cresciuto nel nostro settore giovanile e che aveva, anche se momentaneamente, raggiunto un sogno, quello di indossare, direi, da attore protagonista la maglia bianconera. Questo non è possibile, perché noi abbiamo tenuto fede a un impegno preso con l'Atalanta. Nel frattempo dico anche a Leonardo che comunque la fiducia che abbiamo nei suoi confronti non viene intaccata, lo aspettiamo al termine della stagione e sicuramente farà parte dell'organico futuro della Juventus. Certo, c'è il rammarico, perché mettersi nei suoi panni significa anche capire le amarezze che può attraversando. La diamo chiusa così, Guido Vaciago, o no? Ciao. Ma sì, forse sì, io credo che a questo punto la palla è tutta dell'Atalanta, perché credo che l'Atalanta, che mi ha fatto anche una questione di principio, debba venir meno a questo suo punto, e fino a ieri notte perlomeno non ci sembravano intenzionati a farlo. La Juventus ha stoppato Asamoah, quindi tutto sommato nessuna delle due squadre ha così tanta fretta di chiudere questa operazione. Forse poi all'Atalanta toccherà il lavoro più difficile, che sarà quello di reintegrare Spinazzola nella rosa, con tutti i problemi che comporta il fatto che appunto il capitano si sia espresso in un certo modo, che Gasperini abbia avuto anche lui modo di indispettirsi per il comportamento del ragazzo. Quindi insomma è un problema che toccherà risolvere all'Atalanta, di cui giustamente Marotta è preoccupato, perché poi il giocatore è suo, infatti lanciava questi messaggi come a uno spaggio. Però sembrava che stai tranquillo, anche un po' esagerando, Guido, no vabbè, ma sono questi sta mandando gli elicotteri su Zingoni a mandargli, esatto, i rifornimenti. sono situazioni un po' paradossali di questo mercato, con queste distorsioni che vengono. Per esempio, io ritengo che questo prestito biennale sia un po' poi il frutto della scomparsa delle comproprietà, che tutti maledivamo, giustamente sono scomparse, ma poi se vengono in qualche modo ricomposte in questa maniera un po' strana, come un prestito biennale, poi vengono a creare queste situazioni. Io sono convinto che una situazione come quella di Spinazzola andrebbe risolta con le seconde squadre. Io sono assolutamente favorevole, e potrebbero dare più spettacolo alle serie minori e permettere alle grandi squadre, o a qualunque squadra lo voglia, di coltivare un vivaio senza dover poi usufruire di questi prestiti, contro i quali peraltro mi sembra si sia scagliato anche Ceferi in vive Ceferi. Sì, vabbè, però tanto le seconde squadre da quanti anni ne sentiamo parlare, non lo sei. So. Sei. Ecco. e sempre qui siamo. L'altra domanda, che è una riflessione che facevamo anche a microfono spento, e la chiedo anche a Pier, è se la Juve arriva 2 giorni dalla fine del mercato a prendere un titolare come Ovedes, significa che ha valutato sul campo di avere scarsa fiducia in Rugani e De Sciglio, che poi occupano quei due ruoli lì. Pier, non so, ma che pensiero hai tu. No, io penso che sia stato un acquisto che vuole essere un acquisto furbo, nel senso che comunque ha perso due giocatori di grande personalità e qualità, non più giovanissimi come Bonucci e Dani Alves, un esterno e quindi un terzino e un difensore centrale, si andrà a prendere un giocatore che da solo può fare il dosso in tutte queste situazioni, anche se certamente è più centrale che esterno. Mi sembra un tipo di acquisto, anzi, invece, che non toglie necessariamente spazio ai giovani che devono germogliare. Io credo che un piccolo rischio la Juve lì se lo sia preso, ovviamente, perché quando in qualche modo accetti di far partire un giocatore dell'importanza di Bonucci, un rischio te lo prendi, ben pagato fra l'altro, e quindi questo è, ma non mi pare che la Juve sia stata Non ci vede una sfiducia, direttore? No più no. Nella pressare Spinazzola a tornare vedo una sfiducia, mai, certo, perché se arriva Spinazzola allora... Cioè, come si deve sentire De Sciglio male. In questi giorni? Come si sente Guido De Sciglio in questi giorni? Non benissimo. Non benissimo. Tra l'altro il ragazzo mi sembra che abbia anche qualche problema caratteriale, qualche limite caratteriale, che sono quelli che si proponeva e si propone di risolvere Allegri. De Sciglio va un po' ricostruito e Allegri forse è la persona giusta, perché è stata la persona che più di tutte è riuscito a dargli fiducia quando ce l'aveva nel club. L'altra mi sembra sia stato Antonio Conte all'Europeo, quando ci aveva mostrato un giocatore completamente diverso. Bene. Da quello che poi abbiamo visto nel Milan. Quindi forse della qualità c'è, si tratta di riuscire a tirarla fuori andando a lavorare appunto su queste tindezze, chiamiamole così. Effettivamente sì, questo pressing su Spinazzola non deve avergli fatto bene. A questo punto non è arrivato che De Sciglio riparta da questo non arrivo di Spinazzola e riparta dalla fiducia che ha Allegri in lui, perché comunque è un giocatore che Allegri ha fortemente voluto. Ecco, l'ha praticamente imposto al mercato. L'ha imposto quando non è costato neanche pochissimo. No. Quindi 12 milioni. Ecco, quindi voglio dire, stiamo parlando di un anno dalla scadenza. Stiamo parlando di un giocatore che qualche anno fa, lo ricordate, era considerato uno dei talenti emergenti sicuri del calcio italiano. È chiaro che sono successe delle cose nel frattempo, parecchie cose e quasi tutte negative nella crescita del Sciglio, però sono d'accordo, insomma, Allegri l'ha voluto, è un po' una specie di io ti cambierò, no? Che fanno le mogli con i mariti o i mariti con le mogli, commetto che l'hai grande, però però per il momento mi prendo anche la donna delle pulizie dopo i primi 2-3 mesi. Aspettate, perché siamo in ritardo sul traffico. Sì. È stata la Supercoppa, sì, e quello sì. Non è un dettaglio, perché no. Quella partita lì l'errore pesa. Cambiano le valutazioni. Io do 10 secondi a Guido Vaciago per rispondermi con un sì o con un no, poi lo saluto a questa domanda. Se la telefonata del Barcellona ad Agnelli con i 160 milioni per Dybala fosse arrivata a metà luglio invece che il 29 di agosto, Agnelli avrebbe risposto sì o no? Avrebbe risposto no anche a metà luglio. Poi io mi permetto di dire che non so se il Barcellona arriva a telefonare a 24 ore dalla fine del mercato, i dirigenti, per pensarlo di fare Dybala, i dirigenti del Barcellona sono da sfiduciare immediatamente in blocco. Sì, anche loro non stanno benissimo. Esatto. Ma del resto quest'estate l'abbiamo capito, che hanno qualche problema. Devo dire di sì. Però rispondendo alla tua domanda, no, avrebbero detto di no anche a metà luglio. Se ne riparla la prossima estate. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. E a quel punto vedremo. Grazie Guido. Ciao, grazie. Traffico. I love this game. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Tutti convocati. Fill your eyes, they all over me, don't be shy, take control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight. Sicuramente da parte nostra ci vorrà una partita di grande spessore, dove ci porterà non lo so, io sono convinto che l'importante per noi è fare una partita da grande squadra, poi se riusciamo a vincere tanto meglio, ma la partita di sabato ci deve aiutare per quello che poi è l'obiettivo vero, che è arrivare a giugno tra le qualificate e poter fare un grande mondiale. Con consapevoli, sì, che andiamo a giocarcela, ma andiamo a giocarcela con rispetto, nel senso, perché sennò poi uno penso può travisare le parole, pensare di andare in Spagna e vincere 3-0, me lo auguro, ma lo vedo poco fattibile per quello che è stato. Io sarei contento di rimanere in partita fino alla fine e di potermi giocare la qualificazione e magari farla anche fino all'ultimo secondo. Allora, due giorni e mezzo a Spagna-Italia, che è il vero grande appuntamento, con tutto il rispetto per il calcio mercato di questa settimana del calcio italiano. Saluto Max Nerozzi, che sta seguendo la nazionale. Ciao Max. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, io ve lo giro con le parole di Danilo, che precisa non tifo Napoli. Se Ventura non fa giocare Insigne, deve cambiare mestiere. Max Nerozzi, gioca o no Insigne? Allora Ventura dovrà cambiare mestiere, temo. No, guarda, nel senso che Ventura ha provato sostanzialmente due moduli, 3-4-3 con Insigne e 3-4-1-2 senza Insigne. Oggi appena finito di parlare a Daniele De Rossi, che è stato abbastanza divertente come al solito, e tra le altre cose, pur con la prudenza, secondo me ha fatto un po' capire che Insigne non potrebbe giocare, perché ha parlato, come Chiellini che facevate ascoltare prima, sì, di una fase prudente, non soccombente, ma prudente, che le partite durano 90 minuti e che la Spagna ti farà correre, e ha parlato dell'importanza dei cambi. Lui faceva ovviamente un'ipotesi, ma dice: se Insigne partirà nella panchina, non è detto che non debba essere decisivo. Abbozzo io l'idea di Ventura, come diceva Chiellini, arrivare allo 0-0 al 60-70 è bravissimo, e poi buttare dentro Insigne. Questa è un'ipotesi, non è ufficiale, ma insomma dalle parole dei Rossi secondo me ci si va vicino. E quello che si ricava, ti piace direttore come ipotesi? Ma io dico che Insigne è il più in forma in questo momento del campionato italiano. Ed è l'unico con le famose quattro partite nelle gambe. Sì, quindi mi dispiace la scelta di Ventura, però da un punto di vista sentimentale, umano, la capisco, perché lui si affida ai due giocatori che conosce meglio in un momento delicato. Insomma, quindi capisco il condizionamento. Certo, c'è anche da dire che se poi Insigne diventa la scheggia impazzita che fresco entra, gli altri sono stanchi e ci fa vincere la partita, Ventura gli andiamo tutti a fare gli applausi, naturalmente. Sì, però noi siamo gli unici, Pier, che a parte che non abbiamo tonnellate di talenti come altri, segnalo che questa notte l'Argentina gioca col tridente Messi, Dybala, Icardi, e si è permesso di tenere fuori tutti gli altri, e San Paoli è un uomo fortunato, dico, noi però siamo gli unici che, pur non avendo tutti questi talenti, ci permettiamo di non far giocare Insigne, che oggi indiscutibilmente è il miglior attaccante italiano, oltre che quello più in forma, e stiamo discutendo di dove deve giocare Verratti. Sì, questo no, è ancora, peggio. Guarda, la cosa, sì, Insigne fuori dalla nazionale sembra un'eresia, fuori dall'undici, perché è il giocatore in questo momento è più talentuoso e più in forma, soprattutto, cioè, ha fatto delle cose fantastiche. È chiaro, dipende, cioè, molto più che dagli aspetti sentimentali, dal progetto tattico che ha nella testa Ventura, nel senso che secondo me l'idea è fare un pochino più chiusi e sfruttare il talento di Insigne per mezz'ora, consapevole del suo cambio di passo e delle sue qualità. Certo, sembra un po' lo spreco, sinceramente. Io giocherei con Insigne dal primo minuto, però insomma io non faccio allenatore, Ventura sì, e una sua logica ce l'ha, ma ripeto, è una logica di carattere tattico, secondo me. Sì, ma Max, te la dico come ipotesi, da come anche ce la racconti tu e da come l'abbiamo letta. Io ho come l'impressione che Ventura sia aiutato dai vecchi dello spogliatoio su come prepararla questa partita. Ho avuto quell'impressione anch'io, perché se ascoltavi le parole questa settimana di Chiellini, di Bonucci, di De Rossi oggi, di Buffon, che tutti dicono sarà importante anche vedere come l'Italia esce da questa partita. E ieri addirittura Chiellini ha detto proprio fare una grande partita servirebbe anche se si andasse agli spareggi, quindi sai, io penso che ci sia anche questa visione che dicevi tu prima, cioè una lettura che diceva Pier tattica. Anch'io, che non faccio i citi, oggettivamente giocherei con Insigne, perché questo ha detto il campionato. Insomma, dai, giocatore in questo, a parte un giocatore fantastico a prescindere, ma sembra veramente arrivato alla maturazione totale. Tra l'altro, scusami Pier, aggiungo Giovanni, Verratti, che per me rimane un giocatore fantastico, come dicevate voi, solo in nazionale, dove effettivamente non ha fatto grandi partite ma per diversi motivi viene un po' discusso, rischia di dover giocare trequartista, dico rischia perché con l'Olanda non fece benissimo la trequartista e la più grande partita che lui fece in 10 contro 11 in Israele l'ha fatta come gioca nel PSG sostanzialmente, quindi secondo me sarebbe un piccolo rischio anche quello. Dopodiché insomma lui è il più bravo che abbiamo, quindi è ovvio che deve stare in campo. Trequartista non so se sia il suo mestiere. Mi dici in 30 secondi tu che sei lì, il linguaggio del corpo, degli occhi, come la vedi questa vigilia della nazionale? Io non becco i pronostici, ma li vedo bene, vedo una nazionale che è abbastanza in forma fisicamente per il periodo in cui siamo, è abbastanza convinta e molto molto compatta, come se non fosse successo nulla, come se non ci fosse stato il calciomercato. E tra l'altro si scherza anche su quello, solo battute sullo scudetto, proprio zero attriti, anzi ti dirò, il De Rossi prima che ti dicevo, molto simpatico, ha ricavato uno slogan che piacerà a Pier sicuramente, richiesto della griglia scudetto, sostanzialmente detto meno griglie, che a Roma si fanno sempre, e più grigliate, meno griglie più grigliate. Facciamo nostro. Sarebbe un grande slogan quello. Grazie Max. A voi, ciao buon pomeriggio. Ciao. Grazie Max Nerozzi da Coverciano. Abbiamo un minuto, ci chiedono, e quindi vi chiedo la massima sintesi, il voto al mercato del Milan. Adesso ho perso il messaggio, Pierpaolo Marino, poi Pierluigi Pardo. Pier. 9. Pier, 2. Sì, 8,5. L'unico rischio è il contrario del Napoli. L'unico rischio è che mentre il Napoli non ha cambiato niente, il Milan ha cambiato tutto. Quindi l'unico rischio è il tempo logico di trattamento. No, Milan, sì, ma quello per me è un voto in più, Pier, perché il Milan aveva toccato il fondo e doveva rifondare, sì, assolutamente. Ma guarda, abbiamo fatto mille volte sul discorso, è un all-in. Io non gioco a poker, però insomma il termine è questo qua, è un all-in. Il Milan rischia tanto quest'anno, però è un rischio calcolato, è un rischio chiaro, anche come comunicazione mi sta piacendo, perché nessuno si nasconde da questo punto di vista e adesso tocca al campo, però la sfida è intrigante, per Pontella è un bel lavoro. Poi mi dici chi resta direttore col cerino nelle mani tra 8 ore e 5 minuti? Se l'Inter non prende il difensore, lì è abbastanza grave, insomma. E poi a grande richiesta c'è chi chiede qual è la clausola rescissoria degli occhiali di Pierpaolo Marino. Andate su Twitter, tutti i convocati li vedete. Dai 90 ai 100 milioni. Dai 90 ai 100 euro? No, milioni. Milioni, milioni. Va bene, abbiamo finito. Ciao Pier, a domani. Ciao Pier, ciao. Io ringrazio ovviamente Pierpaolo Marino di essere stato qui. Lo restituiamo alle cose del calcio mercato. Qui siamo a due passi dall'Hotel Meliá. Lui è all'Hotel Gallia. Se volete andarlo a trovare, ha mille aneddoti da raccontarvi. Ci vediamo domani, ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.